voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Undicesima puntata. Libertà. Un giorno di primavera, un giovane pittore americano di nome Tom Corey pedalava, veloce come il vento, su una bicicletta da corsa giallo canarino sotto gli alti pini di Villa Borghese a Roma. Il cielo era, naturalmente, azzurro, però più celeste che azzurro, con nubi e al centro delle nubi una sfumatura grigia e dentro la sfumatura grigia un piumino rosa come di cipria. Tom, naturalmente anche lui, portava scarpe da tennis, blue jeans e una ventosa camicia rossa amaranto di seta lucida, con larghi e grassi fiori blu dipinti a mano, comprata per $1 in un magazzino di stracci cinesi alla 42esima strada di New York. Era biondo, aveva occhi celesti, era magro e non troppo alto e simile a un ballerino. Pedalava come un ragazzo, con foga, ed era già tutto rosso in faccia, un po' sudato, così emanava un odore di pane crudo lievitato e pronto per essere messo al forno. Correndo, attraversava zone d'ombra un po' cupe, coperte di vegetazione nerastra e umida, da cui occhieggiava il tufo e anche il muschio, e in quelle zone si rinfrescava del sole ventosino ma scottante che gli batteva in piena faccia in altre zone aperte. Rideva o sorrideva, mostrando i bei denti bianchi di cane con qualche guizzo di saliva e di luce, e qualche volta socchiudeva gli occhi, frenava l'andatura a razzo o addirittura si fermava e sempre con gli occhi socchiusi guardava una statua, una fontana, un prato sotto gli ombrelli dei pini, la luce che filtrava e i differenti toni di verde dal verde pisello al grigio del prato sottostante. Si fermò a lungo sotto la casa di Raffaello, indeciso, con la punta di un piede per terra, immobile e teso, con gli occhi sempre più socchiusi e mordendosi i baffetti. Poi riprese la corsa, ma a soprapensiero, in discesa, costeggiando Piazza di Siena. Lo sguardo volò dentro quel catino in ombra. Si fermò, appoggiò la bicicletta gialla contro una siepe, la bicicletta affondò dentro l'oscurità verdastra, levò da dietro il sellino, una cartella e una scatoletta di legno, e con questi oggetti di scolaro sotto il braccio e in mano fece pochi passi fino a sovrastare l'ampia conca del maneggio. Qui si sedette sul muro, appoggiò la cartella, ne levò un foglio di carta gialla da macellaio che distese sulla cartella, la fissò con due mollette di lato e aprì la scatola dei pastelli, piccoli ridotti in tanti pezzi. Inutile dire che anche Tom, come tutti coloro che sono belli, giovani e appartenenti a una grande e ricca famiglia o a un grande e ricco paese, era povero ma felice. Egli, come tutte le persone felici, sapeva a malapena di essere povero e non sapeva affatto di essere felice. Mangiava sì e no una volta al giorno, dormiva in un buco della suburra circondato da vecchi muri romani grondanti sangue e morte, ma egli giustamente scambiava sangue e morte per storia, e spesso alla sera ballava dei boogie e dei rock con certe ragazze negre di New York, indossatrici, emanando quell'odore di pane, trattandole come puro materiale ritmico, ed esse erano ben felici di farsi trattare così. Parlava qualche parola di italiano, ma pochissime, e con una stupita grazia miagolante che completava il lessico. Era pittore di paesaggi e di interni, e ogni giorno con la sua bicicletta giallo canarino usciva per Roma o entrava nei palazzi con i suoi piccolissimi gessi. Stava lì un'ora, anche due se non cambiava troppo la luce, ma se la luce mutava e non era più così felice o così infelice come la sua felicità voleva che fosse, se ne andava dopo un quarto d'ora. Tornava il giorno dopo, quando il sole era alto oppure radente. Gli piaceva trovare il colore delle cose che passano, soprattutto in quei momenti di luce infelice al mattino, quando il sole è alle spalle, non ha ancora scaldato i muri, gli alberi e i prati e tutto è ancora avvolto da qualche cosa di diurno che però appartiene più alla notte che al giorno. quella totale mancanza di luce diretta o quella lampeggiante ora dente durava poco. Ecco la ragione per cui andava e veniva. Allora non soltanto la carta gialla da macellaio su cui sfregava i gessi assorbiva quell'umidità e quel freddo, ma anche la sua pelle e i suoi muscoli. E tutto ciò veniva reciprocamente trasmesso dalla carta ai muscoli e dai muscoli alla carta. Quel giorno di primavera e il luogo scelto erano uno di questi. Tom lavorava svelto e un po' corrucciato e miope. Alzando gli occhi aspettava che una di quelle nubi bianche, grigie e rosa passasse sul sole. Siccome le nubi correvano, questo accadeva spesso e Tom lavorava più svelto con i suoi gessetti, abbassando gli occhi fino al foglio. Poco distante da lui stava seduta su un seggiolino pieghevole una donna non vecchia ma quasi vecchia, con le gambe tutte fasciate da grosse calze elastiche grigio-rosate che le stringevano. Vicino alla donna due giovanotti stavano appoggiati ad una macchina blu, senza parlare e fumando. Uno di loro aveva una rivoltella infilata nella cintura. La donna osservava Tom che dipingeva, lo sbirciava ogni tanto e sempre più spesso con moltissima curiosità e con quella sorta di indiscrezione innocente che hanno sia i vecchi che i bambini. Nel frattempo pensava a certe vicende politiche italiane di cui era stata non soltanto protagonista, si trattava di un senatore, ma anche testimone. Il corpo della donna era forte e grosso, come le gambe fasciate, ma non grasso, come quello di una contadina, e come una contadina molto pulita e a posto era vestita e anche pettinata. Anche il volto era di una contadina, ma a differenza di una contadina quale doveva essere stata, il volto era offuscato da qualche cosa che doveva esserci stato un tempo non lontano, qualche cosa di rettilineo e di crudele che si vede nei volti delle suore anziane che comandano. Tuttavia la donna guardava Tom come se egli avesse o mostrasse nel modo di muoversi e di essere e di sfregare i gessetti sulla carta una cosa che lei non conosceva, non aveva visto mai nella sua vita. Si alzò molto lentamente dalla seggiolina pieghevole. Aveva un bastoncino nero e sottile con il manico curvo a cui si appoggiò. I suoi piedi erano grossi, bitorzoluti e incerti dentro le scarpe nere che parevano fatte apposta. Si avvicinò a Tom e guardò attentamente prima lui da vicino, poi quello che stava facendo. Per un istante Tom fu distratto da un passero che si appoggiò a un angolo della cartella, allargando e chiudendo le ali come un ombrellino, e la donna approfittò di questo momento per dire: «Non la disturbo?» Tom ebbe un piccolo soprassalto. Guardò dietro di sé la signora e in quel suo modo un po' miagolante e ridendo, allargando le braccia, le mani e le dita in un gesto di benvenuto nervoso e timido, come volesse abbracciarla e anche arrossendo, disse: «Oh no, prego!» Fece una pausa e disse ancora: «Prego!» «Lei è un artista, un pittore», disse la donna e rivelò una voce bella, un po' maschile. «Sì», disse Tom e arrossì un'altra volta. «Un pittore straniero?» «Americano», disse Tom. «Ah, americano», aggiunse la donna e piegò lievemente il capo in modo gentile, come rispettoso. Ci fu una pausa durante la quale Tom non sapeva che cosa dire, essendo sempre la donna in piedi, e non trovava in quel momento le parole in italiano per aggiungere qualche cosa alla conversazione appena iniziata. Ma la donna, forzando la sua voce lente e autoritaria ad essere il più gentile possibile, disse: «Buongiorno», e si allontanò verso l'automobile blu. I due giovanotti l'aiutarono a salire e l'automobile partì lentamente. Passarono i mesi. Tom non rivide più la donna con le gambe fasciate e la dimenticò completamente. Non così la donna, che di tanto in tanto, passando con la macchina e le due guardie del corpo per le sue passeggiate a Villa Borghese, lo intravedeva dal finestrino. Dava ordine di rallentare, guardava un momento, poi l'auto ripartiva silenziosa verso il Senato. Nonostante la malattia e l'età, la donna era considerata sempre battagliera. Non più come una volta, ma rappresentava, come spesso succede in Italia, una figura di definitivo prestigio politico. Tom questo non lo sapeva, e probabilmente non lo avrebbe saputo mai, tanto lontana era la sua vita da quella politica italiana. ma la donna ricordava Tom e il suo ricordo era sempre legato a qualche cosa che l'aveva attratta in modo quasi scandaloso. Così pensava tra sé, ma purtroppo impossibile da capire, tanto che spesso se lo chiedeva senza ottenere nessuna risposta. Le venne in aiuto alcuni anni dopo un'intervistatrice, giornalista di un mensile femminile, che tra le altre le pose la seguente domanda: «Senatrice, come definirebbe la libertà? Rosa Luxemburg?» lo so», interruppe la donna. Sorrise, politicamente, e alzò leggermente la mano. Il sorriso scomparve, la sua voce tornò un po' maschile. «La libertà è il social...» Qui si interruppe un istante. «La libertà è un pittore americano a Villa Borghese», avrebbe voluto dire. Finì la frase. «Il socialismo, il nostro socialismo». Madre. Un primissimo pomeriggio d'estate del 1940, con aria fresca e radio accese nelle case, un bambino di 11 anni, ultrapromosso, con un orecchio difettoso, figlio unico e sempre tenuto d'occhio dalla madre, fu tentato da un amico più libero di lui e scappò di casa per qualche ora con i pattini a rotelle che amava più di ogni altra cosa al mondo. Egli non si avventurava mai oltre un quadrilatero stabilito dalla madre e segnato da alcuni edifici intorno casa, perché la madre lo voleva a portata di voce. Per cui girava e girava e girava in quelle quattro strade su pattini a rotelle, a grandissima velocità, ma rallentava davanti alle finestre di casa con tendine spione e con una gioia infinita. Conosceva ogni possibile modo di affrontare una curva anche strettissima alla velocità che lui voleva, ma purtroppo non gli era permesso di partecipare a gare, se non di nascosto e con il terrore di sbucciarsi un ginocchio con gli altri ragazzi che avevano i pattini. L'amico che lo tentò, altro pattinatore provetto, era bello, biondo, nervoso e scattante, e sudava e diventava tutto rosso nei lunghi percorsi ed era più vecchio di 2 anni. Inoltre pareva non aver genitori, tanta era la sua libertà nei movimenti del corpo. Visto l'amico più piccolo, quel maledetto giorno gli disse poche parole tentatrici. Queste: «Oggi andiamo al campo d'aviazione. Sono arrivati i cacciabombardieri e gli Stukas». Il piccolo, che si chiamava Giannetto, restò come fulminato, perché tutte quelle parole insieme, campo d'aviazione, cacciabombardieri e soprattutto Stukas, raffiguravano cose dell'altro mondo. Il campo d'aviazione, un luogo lontanissimo, mai nemmeno immaginato da raggiungere in pattini. I cacciabombardieri, aeroplani che egli non aveva mai visto se non in fotografia e nei cinegiornali. Gli Stukas, addirittura tutta la Germania, compresa la sua vecchissima signorina Ingelein, che gli dava lezioni di tedesco e gli inchini con battuta di tacchi alle signore, di cui si vergognava. Disse con immediata balbuzie: se lo sa mia madre», ma nel così dire seguì inebetito l'amico Beppino su tutt'altre strade che il quadrilatero d'ufficio. Gridò inutilmente: «Però torniamo subito, immediatamente!» L'amico biondo e tutto scatti non rispose. Seguendo l'amico a strettissima distanza ma a lunga falcata di gambe e di braccia, Giannetto infilò una strada solitaria dal fondo meraviglioso come di marmo che lo portò ad attraversare un arco medioevale. Poi imboccarono un viale a dolci curve su cui i pattini aderivano e correvano velocissimi. Poi costeggiò un'immensa fabbrica nerastria affumicata dentro cui intravide i lampi di un altoforno. Poi una strada alberata, poi un'altra fabbrica con un fumaiolo da cui usciva una nuvola marrone profumata di caffè tostato, poi una strada di campagna però asfaltata, e in quegli anni non c'erano né camion né automobili, soltanto qualche bicicletta e donne vecchie vestite di nero che andavano e venivano dalla campagna lungo muri di mattoni con vetri aguzzi e filo spinato sul ciglio. Sui muri era scritto a calce: Viva il Duce. Erano ormai in campagna aperta. Qualche piccola nube nerastra era giunta improvvisamente nel cielo, riflettendosi minacciosa nella mente di Giannetto. L'aria profumò di ozono. Apparve una vasta area di campi da tennis rossi, su cui si muovevano in assoluto silenzio, salvo i colpi ritmici delle racchette contro le palle, bianchi giovanotti e signorine. Dietro i campi da tennis, immediatamente dopo, i prati verdi del campo d'aviazione su cui stavano due allianti bianchi, un pallone aerostatico mimetizzato e veri, verdi ai bagliori del sole, i cacciabombardieri e gli Stukas. Peppino e Giannetto si fermarono, aggrappati alla rete metallica che recintava il campo, e guardarono. Ma fu solo un attimo, perché Giannetto cominciò a pensare, con una paura che ingigantiva come le nubi temporalesche nel cielo, alla madre. Che faceva in quel momento? Certamente lo stava cercando, girando in bicicletta a sempre maggiore velocità e chiamando e fermando gente nelle solite strade del quadrilatero. «Torniamo», disse a Peppino. Ma quello fece un segno come di pazzia, intento già a parlare con un soldato tedesco di guardia. Parlamentava sulla possibilità di avvicinarsi agli aerei, forse di toccarli. «Dai, torniamo», disse ancora Giannetto. Ma Peppino aveva convinto il soldato di guardia e perfino un ufficiale che gli si era avvicinato. Per qualche istante Giannetto fu abbandonato dal terrore. Poiché entrambi parlavano tedesco, il soldato e l'ufficiale, lusingati, li scortarono fin sulle piste, fino agli aerei. Giannetto e Peppino furono fatti salire su uno Stukas. Era l'apparecchio personale di quell'ufficiale, che si chiamava Tony Hohenstein, e Giannetto perdette la testa veramente al forte odore di benzina e di feltro dentro l'abitacolo della carlinga. Ma guardava anche la strada, se mai appariva la madre bionda e vestita di celeste in bicicletta. Ai ragazzi l'ufficiale regalò un piccolo distintivo della Luftwaffe. Il sole era però scomparso. «Andiamo, dai, andiamo!» continuava Giannetto. E finalmente Peppino si allacciò i pattini direttamente sulla pista e ripartirono salutati dall'ufficiale Tony Hohenstein, che aveva qualche bagliore dorato sulle ciglia. I tennisti erano spariti dai campi rossi, le nubi brontolavano in cielo. Presero la strada del ritorno direttamente dalla fine della pista, dovettero scavalcare la rete di cinta, quella che Peppino giudicò la più breve, lungo un fiume. Se non che, nonostante la velocità, due fattori ambientali, che vuol dire il fato, arrestarono il ritorno. La strada, improvvisamente, per mano del diavolo, da asfaltata diventò di ghiaia e dal cielo caddero le prime grosse gocce di pioggia. Giannetto pensò, ma non ebbe il coraggio di dirlo all'amico: «Sono perduto, che sarà di me? Domani mia madre mi porta al collegio degli orfani, allora addio tutto, addio casa, addio Peppino, addio scuola, addio signorina Ingelheim, addio pattini!» E se li guardò nelle mani. Gli venne da piangere, ma cominciò la pioggia a scrosciare il fiume lungo il quale camminavano, pareva un mare in tempesta, con grossi buchi nell'acqua fatti dalle gocce. Annodarono in testa i fazzoletti. Correvano verso non si sa dove, Giannetto senza scarpe perché le scarpe erano avvitate ai pattini. Intravidero un piccolo ponte di legno tra le raffiche che si ficcarono sotto al riparo. Il temporale tuonava, il cielo era verde scuro con l'ampia forma di lingua biforcuta, ma Giannetto non aveva nessuna paura, la grande paura, quella che si faceva sempre più grande, era sua madre, di cui gli pareva di intravedere la sagoma celeste ingigantita, dai capelli biondi appiccicati alla fronte rosea e bombata, gli occhi celesti, in bicicletta all'inizio del ponte. Gli pareva di sentir chiamare «Giannetto!». Proprio durante quella paura Peppino tormentava Giannetto di domande sul suo orecchio. «Ma cos'hai all'orecchio che hai fatto così?» E glielo toccava con la punta del dito, molto incuriosito e completamente senza pensieri e preoccupazioni. «Perché hai fatto così, senza nulla, con questo buchetto?» Te lo hanno tagliato da bambino? Hai avuto un incidente? È difettoso, sono nato così, rispondeva Giannetto. Ma è rimasto dentro come? Chiedeva sempre Beppino, toccando col dito e accartocciando quel pochissimo che trovava da accartocciare, e doveva in quel momento parlare ad alta voce perché tra i tuoni e i lampi avanzava un rombo vicinissimo come di motore con degli scoppi. Era un aereo, un bombardiere. Fecero appena in tempo ad intravederne la sagoma tra le nubi bassissime e la pioggia a poche decine di metri, un traballare d'ali a pelo dei campi e dei gelsi, poi si schiantò contro l'argine del fiume ed esplose. I frammenti riempirono il cielo e i campi. Alcuni caddero con dei colpi sul ponte. Uno stivaletto arrivò ai loro piedi portando odore di benzina bruciata. La pioggia durò forse mezz'ora senza però spegnere il rogo. Poi il cielo cominciò a schiarirsi. Qualcosa di azzurro e le prime lame di sole che illuminavano soldati che andavano e venivano intorno ai rottami dell'aereo senza avvicinarsi, parlando in tedesco. I due pattinatori scapparono verso la strada asfaltata, infilarono i pattini e scivolando, tra spruzzi di acqua nelle pozze, tornarono in direzione della città, dove effettivamente Giannetto incontrò la madre in bicicletta, vestita di celeste, che lo cercava con gli occhi celesti sbarrati e scintillanti. Beppino se la svignò dicendo come dovevasi dimostrare. Lui si buttò per terra piangendo e chiedendo perdono. Poi seguì la madre muta sui pattini, appeso al sellino della bicicletta. A casa fu portato a letto. Lui gambe non ne aveva più, spogliato, sculacciato a tutta forza, e diceva soltanto ritmicamente con un filo di voce: pace, chiedo pace. Arrivò la sera e poi la notte. Nascosto sotto il lenzuolo, Giannetto stringeva in pugno una lampada a pila, e solo a notte inoltrata, nella più completa oscurità, i grilli cantavano, suonavano e ballavano in giardino dopo la pioggia, la accese. Con essa spiò le pareti della camera dipinte di azzurro cielo con le stelle d'argento e in un angolo sopra il tubo della stufa una luna a falce. Si rasserenò un poco a quel cielo dipinto, la paura un poco gli passò e solo per qualche istante ebbe davanti a sé gli occhi celesti e scintillanti della madre al momento dell'incontro. Però non li dimenticò mai più, né il vestito celeste, né la bicicletta, né le gote rosse sudate, né la paura di tutto ciò. Nemmeno il giorno in cui morì, febbraio 1957, di una malattia simile alla nefrite, in presenza appunto della madre. Quanto all'amico Beppino, egli visse, come dovevasi dimostrare, in tutt'altri fattori ambientali. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.